Europa 24. Cari ascoltatori di Europa 24, ancora un saluto, un buon anno e dunque un anno che inizia dal lavoro della Commissione Europea, oggi prima riunione operativa e si parla subito di immigrazione, ma arriviamo a questo aspetto tra qualche momento. Prima vi segnalo il tema che di fatto ha segnato l'attualità europea durante queste vacanze, durante le vacanze di Natale e di Capodanno, cioè il rapporto e le decisioni future della Grecia. Bene, il trattato UE dice che la partecipazione all'area euro è irreversibile, lo ha indicato il portavoce della Commissione Europea alla domanda se teoricamente è possibile l'uscita di un paese dall'unione monetaria. Il paese in questione ovviamente è il riferimento all'eventuale caso greco, Grecia che il 25 va a votare e che vede attualmente, secondo i sondaggi, appunto in vantaggio un partito che prende seriamente in considerazione questa opzione. Intanto, con i nuovi partiti della sinistra anti-austerità, appunto di Syriza e Podemos, fieri oppositori delle politiche volute da Angela Merkel in testa ai sondaggi in Grecia ma anche in Spagna, e con l'euroscetticismo dello UKIP di Nigel Farage che tiene banco in Gran Bretagna, l'Europa a guida Juncker di fatto guarda con una certa apprensione al calendario dei principali appuntamenti elettorali del 2015. Il tutto mentre il presidente della BCE Mario Draghi richiama i governi dell'Unione a impegnarsi di più nelle riforme per rafforzare una ripresa ancora debole e irregolare, così la sua definizione. Draghi che annuncia intanto preparativi tecnici per modificare le misure dell'Eurotower, quindi di Francoforte, da mettere in campo in caso di necessità. Analisti e addetti ai lavori avvertono intanto sui rischi che potrebbero derivare dalla vittoria di forze anti-UE. Questo, come abbiamo detto, per quanto riguarda il calendario di fatto di inizio anno, che sicuramente sarà segnato in maniera importante dal voto, dicevamo, del 25 prossimo ad Atene e in Grecia. E ora invece parliamo di immigrazione. L'Europa ha reagito, questo il commento della Commissione UE alla situazione appunto drammatica in molti casi nel sud dell'Europa e ovviamente nel Mediterraneo, nel nostro Mediterraneo. Ecco, la Commissione oggi ha chiesto maggiori mezzi e finanziamenti per sostenere il programma europeo di intervento, da una parte Frontex, senz'altro, dall'altro Triton, che come sapete ha affiancato e di fatto tendenzialmente sostituisce il programma invece italiano di sostegno agli immigrati Mare Nostrum e Servizio. La Commissione europea ha ammesso oggi che Frontex, l'agenzia comunitaria che coordina il controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea e in particolare nel Mediterraneo centrale, necessita di maggiore denaro e maggiori mezzi. La presa di posizione di stamani giunge dopo che le autorità italiane sono state chiamate negli ultimi giorni ad aiutare nuove imbarcazioni cariche di migranti. A differenza che in passato le persone usavano navi cargo e non classici pescherecci. Stamani la Commissione europea ha difeso l'operato dell'operazione Triton, che dal 1 novembre aiuta le autorità italiane a meglio controllare le frontiere meridionali dell'Unione. L'esecutivo comunitario ha anche ribadito che a breve intende presentare nuovi progetti legislativi per migliorare il coordinamento tra i paesi europei, promuovere la solidarietà tra i 28 e rafforzare ulteriormente il controllo delle frontiere. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E infine una notizia che arriva da Kabul: un attentato contro la missione europea di polizia in Afghanistan, EUPOL, ha prodotto un morto e 5 feriti appunto nella capitale afghana. Si tratta di civili afghani che si trovavano vicino alla sede, lo riferiscono fonti ufficiali di EUPOL. Possiamo confermare, si legge in una nota, che alle 9.24 in Italia di oggi un veicolo di EUPOL è stato coinvolto in un attentato suicida condotto da un kamikaze kamikaze in auto. Questa è la nota appunto diramata da Kabul, e con questa notizia è tutto per questo appuntamento di Europa 24. Un saluto da Valeria Bernardi in regia, da Gigi Donelli al microfono. L'appuntamento è per mercoledì, domani Befana saltiamo, l'Europa riparte dopodomani. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.